Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Nuovo fine settimana, nuovo appuntamento con Personal Best, il corso di corsa alla radio. Al mio fianco immancabile e soprattutto instancabile Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno. Ivana, stiamo correndo lungo queste settimane estive tra le varie sfaccettature della corsa: alimentazione, allenamento, maratona e scarpe. Oggi alziamo un po' il tiro e parliamo di ultramaratona, anche se tu sei andata ben oltre. Quali sono le sensazioni e le emozioni dell'ultramaratona? Sono sensazioni fantastiche. Quando feci 60 km a Seregno è stato incredibile, perché dopo il 50esimo mi sentivo benissimo, ma soprattutto persi la concezione del tempo. Mi ritrovai alla fine senza rendermi conto. Soprattutto quegli ultimi chilometri l'ho vissuti come un viaggio. Le immagini circostanti erano diventate un tutt'uno con me stessa, e quindi correvo al mio passo. Sicuramente era un passo di non fatica, e sono entrata con questo stato di flow, ed è stato veramente incredibile. Lo racconto sempre perché è stata un'emozione grandissima. Incredibile perché Ivana, dove gli altri vanno in crisi, lei prova delle emozioni. Sì, ma sicuramente era il mio passo, appunto, di non grande fatica, quindi sui 5-10 al chilometro. Sicuramente se avessi fatto molto meno, insomma, non mi ritrovavo a fare questo tipo di viaggio. Secondo me arrivi in questo stato quando riesci ad annullare completamente qualsiasi affaticamento. E mentre nelle altre imprese, quelle molto più lunghe, insomma, i tuoi 900 chilometri, 340 chilometri, insomma, questi numeri enormi, come si superano le difficoltà che si presentano durante queste distanze? Ma si superano cercando di sopportare i dolori, i grandi dolori fisici che si hanno, soprattutto con la forza della mente. Cioè, è un continuo tra la mente e il corpo, di dire guarda che ce la fai. Il corpo ti dà segnali continui che sei al limite fisico, e la mente dice no, guarda che ce la fai. Ed è anche questo, ovviamente, un grandissimo allenamento. Ma ci sono delle tappe mentali che ti aiutano, nel senso, guardi non alla fine ma da tappe intermedie, immagino. Assolutamente, io ragiono sempre per micro obiettivi. Penso sempre ogni 5 chilometri faccio 4 chilometri, poi mi fermo il chilometro per bere, per mangiare, e quindi il micro obiettivo sono i 5 chilometri. È importantissimo, perché sennò il pensiero di fare 90 chilometri di fila mentalmente non ce la fai, proprio non riesci. E quindi è fondamentale mettersi dei micro obiettivi per poter poi arrivare alla fine. Ivana, e per avere qualche spunto in più e per approfondire l'argomento ultramaratona, è tornato qui da noi a Personal Best Giorgio Calcaterra, che dire, 3 volte campione del mondo della 100 km e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del passatore. Bentornato Giorgio. Grazie, ciao a tutti. Giorgio, come si diventa ultramaratoneti? Allora, secondo me molto fa la testa, nel senso che ultramaratoneti a volte si è dentro. Sono persone che sono diventati direttamente ultramaratoneti, ne ho conosciuto proprio uno poco fa e mi ha stupito. Il mio passaggio, per esempio, invece è stato contrario, è stato molto lento. A me la 100 km spaventava, e spaventava tanto, quindi prima di farla ci ho messo tantissimi anni. Come ci sono diventate e come spesso ci diventiamo un po' tutti, il fatto che quando abbiamo fatto qualche maratona e vediamo che la maratona tra virgolette ci sembra facile, quello che è sempre stato la maratona nell'immaginario comune, cioè è stata quella gara epica, quella gara difficile da fare, ci accorgiamo che ormai è una gara, non dico per tutti ma per moltissimi. Okay. E vediamo i grandi numeri che fa la maratona. A quel punto, quando ci si vuole mettere un po' più alla prova, il passaggio alla 100 è un po' d'obbligo, e la 100 effettivamente è una distanza che ti lascia dentro qualcosa, la possibilità, il sapere di aver fatto 100 km ti dà qualcosa in più, ti rende un po' più forte. E quali sono le prime dritte che possiamo dare a chi vuole poi a approcciarsi a una distanza di un'ultramaratona, tipo 80-100 km come quelle che fai tu? Allora, la prima dritta dritta che mi sento di dare è lavorare anche dal punto di vista psicologico, perché ripeto, 100 chilometri, se uno ci pensa, cioè già dal primo chilometro magari pensa ne mancano 99, finisce, sono lunghissimi. Se invece si affrontano in maniera un po' più spensierata, dicendo ok, se essendo la gara lunga, anche se mi dovessi stancare, posso fermarmi quei 2-3 minuti, quindi non pensare alla 100 in totale, ma pensare a piccoli traguardi, diciamo innanzitutto arrivo al 10º, poi al 20º e via dicendo, quindi mentalmente non pensare che la crisi sia eterna, ma se arriva finisce anche, e quindi pensare molto a divertirsi, mentalmente aiuta tanto, perché se si parte pensando devo fare 100 km a tutta, la fatica è sicuramente maggiore. L'altro consiglio è quello di non sottovalutare nemmeno l'alimentazione e l'idratazione, quindi bere e mangiare anche durante, e quindi provare anche queste cose nell'allenamento, e poi magari fare qualche chilometro in più, perché per preparare una 100 e cercare di farla bene sarebbe necessario qualche chilometro in più. Leggendo il tuo libro emerge il fatto che bisogna un po' abituarsi in una gara così lunghe ad avere più di una crisi e riuscire a superarla. Sì, non è detto, nel senso che ho fatto anche 100 km senza avere crisi, perché se si dosa bene le energie, se ci si arriva bene preparati in forze, non si hanno crisi, però possono capitare, e quello che dicevo poco fa è proprio quello, bisogna essere in grado di non farsi prendere dal panico, e di rallentare, di cercare di capire qual è il motivo della crisi, quindi se è alimentare per esempio, mangiare o bere, se invece magari è mentale, arriva, perché può essere anche mentale, uno ad un certo punto quando sta al 50esimo e si vede davanti e sa che davanti a sé ci sono altri 50 chilometri può prendere male, però bisogna appunto saperla prendere. Giorgio, come si vince per 12 volte consecutive la 100 km del passatore? Vincere per 12 volte consecutive è un mix di ingredienti, è una ricetta ben riuscita di cui neanch'io so bene la formula, se possiamo chiamarla formula, o la ricetta forse, visto che parlavo di mix è più giusto. E sicuramente questo ci vuole anche tanta fortuna, perché star bene per 12 anni nello stesso periodo è importante, quindi una buona dose di questa è fortuna. L'altra è sicuramente avere tanta costanza e tanta passione, poi per carità probabilmente ci vuole anche un po' di predisposizione, si mischia il tutto, non so bene in che ingredienti, e poi si corre insomma. Tra 12 anni dove ti vedi? Ancora a combattere tra Firenze e Faenza? Mi piacerebbe, però non sono così ottimista. Dico sempre che bisogna essere ottimisti, però insomma anche un po' realisti. Io penso di aver vinto questa gara veramente per tante volte, e se penso che la prima volta avevo paura di non farcela, la mia paura più grossa era quella di non riuscire a concludere 100 chilometri. Sti racconti che mi facevano mi spaventavano tanto. Proprio per quello l'ho preparata molto con cura e sono riuscito a vincere la mia prima 100 km del passatore nel 2006. Per cui no, non penso di riuscire a vincere di nuovo fra 12 anni il passatore. Mi piacerebbe poterlo ricorrere fra 12 anni, perché vorrebbe dire appunto che sto bene, soprattutto questo, perché per correre 100 km devi avere una salute psicofisica che è importante, e quindi spero, però non ci credo neanch'io. Grazie a Giorgio Calcaterra. Grazie a tutti, ciao. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.